Bene, questa è la prima e anche per il momento l'ultima audiosintesi che realizzo, visto che contrariamente a quanto prescrive il decreto ministeriale contenente le linee guida in materia di didattica digitale integrata, a quanto pare sono costretto, in seguito ad alcune lamentele, a trasmettere d'ora in poi costantemente, inesorabilmente e ineludibilmente in diretta tutte le spiegazioni, nonostante i problemi tecnici, il rumore di fondo e vari altri inconvenienti che possono verificarsi. A me sembrava molto più utile, più comodo e più flessibile, insomma, per gli studenti poter usufruire di queste audiosintesi, che in genere sono più chiare, lineari e prive di interruzioni, insomma, no? Potevano essere utili come ripasso per chi aveva assistito alle spiegazioni in presenza, potevano essere utili anche per supplire a tali spiegazioni per coloro che invece erano a casa. Ma mi hanno detto che questa insomma, la scuola introduce questo obbligo della simultaneità, della sincronicità, insomma, fra didattica in aula e didattica a distanza, e quindi vabbè, addio a queste utili e comode audiosintesi, almeno per ora. Dunque, io in classe ho fatto leggere la pagina conclusiva della Storia della letteratura italiana di Francesco De Sanctis, uscita fra il 1870 e il 1871, Storia della letteratura italiana, che è stata definita come una sorta di romanzo di formazione della nazione italiana, insomma, attraverso un percorso lineare, progressivo, un'alternanza di decadenze e rinascite, di sviamenti e ritorni sulla retta via. Ecco, la coscienza italiana, riflessa nella letteratura italiana, sarebbe infine pervenuta alla propria autocoscienza, ecco, visione tipicamente hegeliana che si trova in De Sanctis. Questa pagina conclusiva è un po' forse il modo migliore per introdurre il programma di quest'anno, che prende le mosse proprio dall'unità d'Italia, con le opportunità e anche i problemi che essa poneva. In particolare, no? Fatta l'Italia bisognava fare gli italiani, come diceva quella frase falsamente attribuita a Massimo D'Azeglio, che testualmente non la scrisse mai, ma espresse un concetto analogo. In particolare, come è noto, c'era la spaccatura fra il mezzogiorno d'Italia e il resto del paese, come si vede molto bene nei Malavoglia, ma anche in un romanzo del Novecento come Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. Il mezzogiorno tendeva a vedere il potere centrale come qualcosa di estraneo, di ostile, per gli obblighi che esso imponeva, obblighi fiscali e anche militari, ecco. Mancava, insomma, ancora una coscienza, ecco, identitaria, si direbbe, una fisionomia precisa, un'identità, insomma, della nazione italiana. E si pensava che la letteratura potesse contribuire alla maturazione di questa coscienza. Non so fino a quanto ciò sia vero, perché fin dei conti la letteratura, specialmente quella italiana, è tradizionalmente rivolta alle élite, scritta dalle élite, rivolta alle élite, con pochissime eccezioni, forse quella di Manzoni, ecco, attraverso l'insegnamento scolastico, Dante, l'inferno, alcuni canti dell'inferno sono universalmente noti, ma per il resto identità, comunque questo sarebbe un lungo discorso. L'Italia, costretta a lottare tutto un secolo per acquistare l'indipendenza e le istituzioni liberali, rimasta in un cerchio di idee e di sentimenti troppo uniforme e generale, subordinato ai suoi fini politici, assiste ora al disfacimento di tutto quel sistema teologico, metafisico, politico che ha dato quello che poteva dare. De Sanctis deve constatare, beh, lui veramente era un intellettuale democratico, decisamente laico, anticlericale, non era un liberale, un cattolico liberale come Manzoni, favorevole al risorgimento ma anche cattolico. De Sanctis era decisamente anticlericale, insomma, aveva idee di matrice giacobina, un po' come il giovane Carducci, che invece in vecchiaia si avvicinerà a posizioni monarchiche, conservatrici, militariste. Ecco, l'ontologia con le sue brillanti sintesi aveva soverchiate le tendenze positive del secolo. Ora visibilmente esaurita, ripete se stessa, diviene accademica, perché Accademia e Arcadia è la forma ultima delle dottrine stazionarie. Qui De Sanctis allude all'idealismo, alla crisi dell'idealismo nel tardo Ottocento. Il clima culturale, quello del positivismo che ormai si sta diffondendo sempre di più. I sistemi sono sospetti, le leggi sono accolte con diffidenza, i principi più inconcussi, cioè indiscussi, sono messi nel crogiuolo, cioè vengono saggiati, vengono messi alla prova. Niente si ammette più che non esca da una serie di fatti accertati. Ecco, questa era la mentalità tipica del positivismo, cioè verificare tutti i fenomeni storici e naturali sulla base di dati certi. Accertare un fatto desta più interesse che stabilire una legge. Le idee, i motti, le formule che un giorno destavano tante lotte e tante passioni sono un repertorio di convenzione, non rispondenti più allo stato reale dello spirito. Ci è passato sopra Giacomo Leopardi. Qui De Sanctis dà, se vogliamo, una interpretazione un po' unilaterale, vede Leopardi soltanto come materialista e come sostanzialmente ateo, mentre in Leopardi c'è anche una componente platonica, gnostica, ci sono anche venature spiritualiste, insomma. Comunque, vabbè, questo sarebbe un lungo discorso. Diresti che proprio appunto quando si è formata l'Italia si sia formato il mondo intellettuale politico da cui è nata. Parrebbe una dissoluzione se non si disegnasse in modo vago ancora ma visibile un nuovo orizzonte. Insomma, la neonata Italia unita, perché è esattamente il periodo l'anno della Breccia di Porta Pia, quindi la fine del potere politico della Chiesa e la fine dello Stato della Chiesa, il completamento dell'unificazione nazionale per un intellettuale risorgimentale e anticlericale, laico come De Sanctis, era un momento di grande entusiasmo. Insomma, le idee, i motti, le formule che un giorno destavano tante lotte, tante passioni, no, questo tutto, dice. Una forza instancabile ci sospinge e appena quietate certe aspirazioni si affacciano le altre. Insomma, un continuo mutamento, no? Come dice Foscolo nei Sepolcri, no? Una forza assidua le affatica di moto in moto, insomma. Le forme del vivente che si modificano costantemente, si avvicendano le une alle altre, e lo stesso accade qui con le forme dell'intelletto e dello spirito. L'Italia è stata finora avviluppata come di una sfera brillante. Ecco, in classe abbiamo iniziato a leggere da qui, comunque caricherò in didattica sul registro elettronico il testo sobriamente annotato. La sfera della libertà e della nazionalità è nata una filosofia e una letteratura la quale ha la sua leva fuori di lei, ancorché intorno a lei. La filosofia e la letteratura non sono fini a se stesse, ma sono condizionate da quella società, da quel contesto storico di cui sono esse stesse specchio e interpretazione. Ora si deve guardare in seno, deve cercare se stessa. Queste sono espressioni dantesche, come ho detto in classe, no? Guardati in seno, Dante lo dice rivolto all'Italia, dice orti guarda in seno, insomma, dentro dalle prode, insomma, ironicamente dice, guarda come sei ridotta, povera Italia, come sei lacerata dalle lotte interiori. La sfera deve svilupparsi e concretarsi come sua vita interiore. vorrebbe dire, la letteratura italiana deve prendere coscienza di ciò che la circonda, del contesto storico da cui è sorta, farlo proprio, farsene interprete. La ipocrisia religiosa, la prevalenza delle necessità politiche, le abitudini accademiche, i lunghi ozi, De Sanctis valutava negativamente Guicciardini, considerando che il suo concetto di particolare fosse una forma di opportunismo, cortigiano. Le reminiscenze di una servitù e abiezione di parecchi secoli, gli impulsi estranei sovrapposti al suo libero sviluppo, hanno creato una coscienza artificiale vacillante, le tolgono ogni raccoglimento, ogni intimità, cioè vuol dire ogni serietà, ogni capacità meditativa. La letteratura italiana tende ad avere spesso, nel corso dei secoli, insomma, ha spesso avuto la tendenza ad avere un carattere così esteriore, accademico, formalistico, pensate al Barocco, all'Arcadia, per certi aspetti anche al neoclassicismo, insomma. La sua vita è ancora esteriore e superficiale. Oh, deve cercare se stessa con vista chiara, sgombra da ogni velo e da ogni involucro, guardando alla cosa effettuale. Ecco, qui vedete, emerge invece la predilezione per Machiavelli, questa espressione, la verità effettuale della cosa, no? La verità effettuale della cosa, cioè, i fenomeni concreti, insomma, guardare ai fatti concreti, non alle chiacchiere metafisiche, con lo spirito di Galileo, di Machiavelli, no, Galileo, Machiavelli, anche Goldoni, se non sbaglio abbiamo letto l'anno scorso, Goldoni, il Galileo della nuova letteratura, no? Il brano di De Sanctis. Insomma, Galileo rappresenta la natura con la stessa evidenza e la stessa concretezza con cui Galileo, no, come Galileo rappresenta e studia la natura con la stessa evidenza, con la stessa concretezza con cui Goldoni rappresenta invece l'uomo e la società. In questa ricerca degli elementi reali della sua esistenza, lo spirito italiano rifarà la sua cultura, restaurerà il suo mondo morale, rinfrescherà le sue impressioni, troverà nella sua intimità nuove fonti di ispirazione, la donna, la famiglia, la natura, l'amore, la libertà, la patria, la scienza, la virtù, insomma, praticamente tutto, non come idee brillanti viste nello spazio che gli girano intorno, ma come oggetti concreti e familiari divenuti il suo contenuto. Insomma, la famiglia, la donna, la scienza, la virtù, la natura, tutte le possibili fonti di ispirazione per la poesia non devono essere qualcosa di astratto, ma qualcosa di autenticamente vissuto. Una letteratura simile suppone una seria preparazione di studi originali, diretti in tutti i rami dello scibile, guidati da una critica libera da preconcetti e paziente esploratrice. Vedete l'importanza della critica letteraria per lo sviluppo della letteratura. Cioè, questo è un aspetto significativo. Sì, De Sanctis non vede ancora la critica letteraria come un genere letterario autonomo, non sottolinea tanto la creatività, l'autonomia della critica, diciamola, considera sempre così strettamente legata all'attività letteraria, ma l'una e l'altra, tanto la critica quanto la creazione, sono sempre guidate da un principio morale, che rischia di renderle eteronome. Ecco, ma questo sarebbe un lungo discorso. Guardare in noi, nei nostri costumi, nelle nostre idee, nei nostri pregiudizi, nelle nostre qualità buone e cattive, convertire il mondo moderno in mondo nostro, studiandolo, assimilandocelo e trasformandolo, esplorare il proprio petto, cioè la propria interiorità, secondo il motto testamentario di Giacomo Leopardi. Qui c'è un po' anche un'eco del gnosis euton, no? Gnosce te ipsum, anzi nosce te ipsum, è il grande principio della sapienza delfica. Questa è la propedeutica, cioè la preparazione alla letteratura nazionale moderna, della quale compariscono, cioè compaiono presso di noi piccoli indizi con vaste ombre. Ci incalza ancora l'Accademia, l'Arcadia, il classicismo, il romanticismo, insomma, da una parte un eccesso di formalismo, di perfezione stilistica senza anima, dall'altro lato un eccesso di sentimentalismo, di soggettivismo, ecco. Continua l'enfasi e la retorica, argomento di poca serietà di studio e di vita. Per De Sanctis lo stile non doveva essere fine a se stesso, ma doveva nascere da un'autentica forma di impegno etico e di travaglio conoscitivo, ecco, diciamo. Viviamo molto sul nostro passato e del lavoro altrui. Non c'è vita nostra e lavoro nostro. E da nostri vanti si intravede la coscienza della nostra inferiorità. Cioè, ci vantiamo del passato perché siamo consapevoli della pochezza del nostro presente. Il grande lavoro del secolo XIX, cioè XIX, è al suo termine. Assistiamo ad una nuova fermentazione di idee, un nuovo fermento, insomma, un rinnovamento di idee, nunzia, cioè annunciatrice, di una nuova formazione. Presagio, insomma, di una nuova formazione. Già vediamo in questo secolo disegnarsi il nuovo secolo. E questa volta non dobbiamo trovarci alla coda, non ai secondi posti. Sì, questa è la situazione da cui nasceranno i grandi movimenti del secondo Ottocento. Da una parte il verismo che guarda al naturalismo francese e rappresenta concretamente, con rigore scientifico quasi, la società, i conflitti che agitano la società, la scapigliatura, che invece è una forma di ribellione, di décadence, di bohème, insomma, rifiuto antiborghese delle convenzioni sociali. Il classicismo carducciano, invece, Carducci, che un po' agli antipodi rispetto a De Sanctis, recupera la grande lezione dei classici, si pone come scudiero dei classici, ma nello stesso tempo ha anche un forte impegno ideologico, soprattutto in giovinezza, insomma, idee giacobine, democratiche. Progressivamente, con la vecchiaia, si avvicinerà invece a posizioni monarchiche, conservatrici, militariste. Qui De Sanctis riesce ad intuire subito, quasi in modo profetico, la grande svolta, insomma, a cui si accinge letteratura italiana, e sono proprio questi gli aspetti su cui ci soffermeremo quest'anno, diciamo nella parte iniziale almeno del programma di quest'anno. Bene, Lectio Brevis, anzi brevissima, appunto una audiosintesi, per ora non ce ne saranno altre perché così mi è stato detto. A risentirci, anzi no, a questo punto solo a rivederci attraverso, o di persona o attraverso il meraviglioso di Google, non so cosa, ecco.